in primo piano. Buongiorno, eccoci qui ritrovati per la rassegna stampa quotidiana. Oggi è domenica 1 settembre, io sono Francesca Milano e saremo insieme per qualche minuto per dare uno sguardo ai quotidiani che trovate in edicola oggi. I quotidiani che trovate in edicola appunto oggi sono tutti rivolti alla Siria, perché le principali notizie appunto riguardano la pagina di esteri, ma c'è spazio anche per la politica, per la cultura, essendo domenica, e per la cronaca ovviamente. Però partiamo appunto dalla pagina di esteri. Partiamo dalla pagina di esteri perché, come avete sentito nel GR di questa mattina, Obama ha deciso, o meglio, ha deciso di non decidere, ha preso un po' di tempo. Perché? Perché ieri nel Giardino delle Rose della Casa Bianca ha pronunciato queste parole che riporta la Repubblica nel suo titolo di apertura: attacco ma con il sì dell'America. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Obama in pratica chiede il via libera al Congresso, ha deciso di punire Assad, così riferisce la Repubblica, ma ha anche deciso di aspettare probabilmente il 9 settembre, perché vuole aspettare che sia il Congresso americano a dargli l'ok definitivo. E leggiamo infatti proprio le sue parole. Io ho deciso, dice Obama, l'America deve intervenire, dobbiamo colpire la capacità di Assad di fare stragi, ma con le armi chimiche. Ma come presidente della più antica democrazia, so che la nostra forza viene dal nostro esempio. Voglio chiedere l'autorizzazione al popolo americano, ascoltando i suoi rappresentanti al Congresso. Queste appunto le parole di Obama, che in pratica quindi così prende tempo, chiarisce la sua posizione. Fino a qualche ora fa si era definito ancora incerto, aveva detto che non sapeva quali sarebbero state le sue mosse. Adesso fa un passo in avanti, dice sì, attacchiamo, ma aspettiamo un secondo. E sempre sulla Repubblica si riporta però anche la notizia di Damasco, perché Assad dice abbiamo il dito sul grilletto. E poi c'è anche un altro fronte, quello russo, perché Putin accusa gli USA, le prove sono inesistenti. L'articolo principale del Messaggero, sulla prima pagina del Messaggero, anche riguarda la Siria. Infatti il titolo del Messaggero è: Siria, Obama rinvia l'attacco. Così il Messaggero rivede queste dichiarazioni del presidente americano e infatti riporta: il presidente USA, ho deciso, pronto all'intervento, ma attenderò il via libera del Congresso. I raid limitati anche domani o fra un mese. Queste le parole di Obama. Però appunto si riporta anche la sfida che Assad lancia agli Stati Uniti, dicendo che appunto sono pronti a rispondere adeguatamente. Anche il Corriere della Sera parla della questione Siria, quindi apre con una pagina di esteri riportando la notizia della richiesta di Obama di ottenere il sì, quindi il via libera del Congresso. Obama dice: siamo pronti ad agire in Siria anche senza l'ONU, anche subito o tra un mese, appunto a seconda di quando arriverà l'ok del Congresso americano. Però c'è anche un altro fronte legato a quello della Siria, del possibile attacco americano, perché ovviamente si parla anche degli alleati. E allora il Corriere della Sera riporta le parole di Letta, il premier italiano, che dice: noi fuori, ma siamo dalla parte degli Stati Uniti. Questa è una posizione un po' delicata che adesso andremo ad approfondire, ma sempre parlando di Siria, volevo anche leggervi un articolo, parte di un articolo di un'analisi di Ugo Tramballi pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, perché è molto interessante. Cerca un po' di fare chiarezza su quello che vogliono dire in realtà le parole di Obama. Ugo Tramballi sul Sole 24 Ore dice: l'intervento militare è ancora probabile, ma avverrà dopo che il Congresso l'avrà approvato, sebbene il presidente abbia poteri costituzionali per ordinarlo da solo. È possibile che nel frattempo il Consiglio di Sicurezza ONU avrà ascoltato il rapporto dei suoi ispettori e il mondo si sarà fatto del massacro in Siria un'idea più completa, ed è possibile che quindi sotto la minaccia del bombardamento si faccia strada un'ipotesi negoziale. Ecco, questo potrebbe spiegare un po' perché Obama prende tempo. Infatti il Sole 24 Ore titola: Obama aspetterò il Congresso, quindi in qualche modo si prende un po' di tempo perché magari il Consiglio di Sicurezza dell'ONU potrebbe metterci una parola e in qualche modo forse l'attacco che Obama ha annunciato potrebbe anche essere scongiurato. Vedremo nei prossimi giorni quali sono gli sviluppi, perché appunto la questione non finisce qui. Però vi dicevo anche dei, diciamo, della reazione italiana a queste parole di Obama, e allora leggiamo il titolo, un titolo della pagina interna del Corriere della Sera sul Premier Letta. Le parole distensive di Letta: non possiamo partecipare, ma comprendiamo gli Stati Uniti. Dopo i toni accesi della Bonino, manca l'ok dell'ONU. Che cosa vuol dire Letta? Letta vuol dire che, insomma, Letta ricalibra un po' il tiro rispetto a ieri, quando il ministro Emma Bonino, il ministro degli esteri italiano, aveva detto che un attacco, possibile attacco in Siria, avrebbe potuto far scaturire una guerra addirittura mondiale. Letta ci prova, sta un po' in equilibrio, con l'attacco americano non più vicinissimo, si legge sul Corriere della Sera. Enrico Letta aggiusta il tiro sulla Siria senza cambiare la sostanza della posizione italiana. Comprendiamo pienamente l'iniziativa degli Stati Uniti e della Francia, dice Letta, alla quale però senza le Nazioni Unite non possiamo partecipare. Ecco, quindi in pratica questa è la posizione al momento del governo italiano. Vediamo anche le posizioni degli altri paesi, perché appunto ovviamente si parla degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti sono interventisti, ma senza fretta, abbiamo detto. La Francia si è detta pronta a colpire, quindi il presidente Hollande ha ribadito che la Francia è pronta a scendere in campo al fianco degli Stati Uniti in caso di un attacco. I britannici invece si sono tirati fuori, sono fuori gioco. Il ministro Cameron in un'intervista ha detto che in pratica non ci saranno in caso di attacco. L'Italia appunto dice che senza l'ONU non si può partecipare a questo possibile attacco, e invece la Russia, come accennavamo prima, sfida l'America, perché Putin si è detto scettico rispetto all'esistenza delle prove dell'attacco chimico della Siria, e quindi Putin mette in guardia le varie forze contro il blitz di Damasco. Poi c'è un fronte turco, un fronte arabo, che invece sono molto più paesi molto più interventisti, e quindi probabilmente a cui probabilmente farebbe gioco un possibile attacco in Siria. Sempre parlando della Siria, perché è l'argomento che tiene banco su tutti i quotidiani che trovate in edicola oggi, il Messaggero ha un articolo molto interessante che spiega un po' anche le strategie che potrebbero stare dietro alle parole di Obama e a un potenziale appunto attacco. Allora si dice: guerra lampo, un intervento che può essere ad alto rischio. La strategia USA si punta a un attacco di pochi giorni, ma nessuno è in grado di escludere che il conflitto si prolunghi. Ecco, questo è un po' il problema, perché da quando Obama ha spiegato che l'attacco ci sarà, non si sa quando, dopo l'ok del Congresso, ma ci sarà, allora si comincia a pensare a quanto sarà lungo, a come sarà sviluppato, a che cosa succederà. E allora il Messaggero appunto riporta in pagina 5 oggi una serie di possibilità: bombardamenti di tipo chirurgico, 50 gli obiettivi da distruggere sul territorio, però a sua volta la Siria si prepara e nasconde i suoi missili. E poi ci sono un po' di retroscena, cioè la questione islamica in tutta la regione, quale potrebbe essere la reazione dei paesi appunto, e anche l'attendismo di Israele, un altro fronte interessante. Leggiamo sempre a proposito della Siria il Manifesto, perché il Manifesto pubblica la foto di Obama in riunione con il suo staff, e il titolo è Time Out. A sorpresa, dice il Manifesto, Obama chiede al Congresso di approvare l'intervento militare in Siria. In 10 giorni tutto è possibile. L'ONU e volenterosi non servono più. Anche Hollande, sempre più isolato, dovrà vedersela con il Parlamento. Putin chiede un confronto al G20 di San Pietroburgo. E Damasco attende le bombe, oggi solo rinviate. E sempre sulla Siria, l'editoriale del Manifesto, tra pause e paure, di Alessandro Dallago, dice: la scelta di aspettare il ritorno del Congresso e chiedergli un pronunciamento serve a prendere tempo e a guadagnare un consenso all'intervento che finora manca del tutto. Ecco, questo è interessante, il problema del consenso, perché in effetti abbiamo visto anche ieri, avrete sentito anche dalle ultime notizie, ci sono alcuni scontri, ci sono delle fazioni che insomma anche negli Stati Uniti sono contrarie all'intervento in Siria, a un intervento militare, e quindi Obama deve un po' tenersi in equilibrio tra tutte queste posizioni. A proposito di chi era pacifista e poi diventa interventista o viceversa, la stampa di oggi riporta un bel ritratto di Kerry, il segretario di Stato John Kerry, il segretario americano. Kerry, il pacifista, ha rimesso l'elmetto. Eroe nella guerra in Vietnam, ne divenne poi il principale oppositore. Ora è lui a volere l'intervento. In questo ritratto di John Kerry, un po' la stampa fa il punto, racconta ovviamente le posizioni e la storia di Kerry, che appunto è stato eroe in Vietnam e poi portavoce dei pacifisti negli anni 70 addirittura, poi è stato favorevole all'intervento in Iraq nel 2003 e poi oppositore della stessa campagna l'anno successivo. E adesso Kerry è come dire, è l'uomo più interventista del governo Obama, se vogliamo, perché le sue parole sono state proprio queste: noi sappiamo, vuol dire che vuol dire chiaramente che gli Stati Uniti devono attaccare, perché hanno avuto certezze dell'uso di armi chimiche da parte della Siria. Parliamo sempre di Siria perché sulla Repubblica si riportano le testimonianze appunto di chi ha subito l'inferno dei gas, urla convulsioni e tutti quei morti, ecco come è stato l'inferno di gas. Via Skype i racconti dei sopravvissuti agli attacchi chimici. Passiamo alla pagina politica, perché anche sul fronte politico italiano ci sono delle novità, ci sono sempre delle novità, non ci si annoia mai, con Berlusconi, perché Berlusconi oggi smentisce se stesso, questo lo dice la Repubblica. Nessun ultimatum a Letta. Silvio Berlusconi quindi ha negato di aver lanciato un ultimatum al governo Letta, perché ieri aveva detto se cado io, se mi in qualche modo se mi tolgono potere, cade il governo. Invece oggi si rimangia un po' le cose, infatti la Repubblica in edicola oggi riporta le parole di Berlusconi che dice: il governo sta facendo cose egregie, ha detto ieri, aggiungendo che però sarebbe assurdo rimanere alleati con il PD in caso questi al Senato volesse la sua decadenza da parlamentare. Ecco, su questo fronte c'è il gelo anche del segretario del Partito Democratico Guglielmo Epifani, che ribadisce: voteremo invece la decadenza. Intanto ieri il Berlusconi, leader del PDL, ha firmato il referendum di Pannella, e quindi approfondiamo questo argomento perché insomma è un po' il tema di giornata. Lo approfondiamo tramite un articolo del Corriere della Sera. Il Cavaliere firma per il referendum su giustizia, droga e Bossi Fini. Il leader del PDL, dice il Corriere della Sera, con Pannella anche sui quesiti che riguardano le sue leggi. Non sono d'accordo su tutti, spiega Berlusconi, ma è giusto che gli italiani si esprimano. Che cosa è successo? Che è successo che Berlusconi è andato al gazebo a Roma, allestito in Largo Argentina a Roma, per firmare i quesiti referendari proposti dai radicali. Si tratta di 12 quesiti, 6 dei quali riguardano la giustizia, temi che Berlusconi definisce sacrosanti, altri 6 che riguardano temi su cui Berlusconi si definisce non d'accordo. Infatti leggiamo le sue parole, sempre dal Corriere della Sera. Quesiti, dice l'ex premier, su cui non sono d'accordo, ma sui quali ci metto la faccia perché credo sia giusto che agli italiani sia dato il diritto di esprimersi con un sì o con un no sui problemi che vengono loro sottoposti. Quindi Berlusconi cerca con la sua firma di far raggiungere il quorum per appunto portare poi i quesiti referendari così al voto dei cittadini. I quesiti, lo ricordiamo, appunto sei dicevamo, riguardano la giustizia, e in particolare sono questi: responsabilità civile dei giudici, 2 sono i quesiti referendari che riguardano questo tema, poi c'è il quesito che mira a limitare il numero di giudici collocati negli uffici legislativi dei ministeri. Poi c'è quello sui limiti della custodia cautelare, poi c'è anche il quesito sull'abolizione dell'ergastolo proposto appunto dai radicali, quello sulla separazione delle carriere tra PM e giudici, di cui si è tanto spesso parlato. Poi c'è un quesito sul divorzio breve: se passasse sarebbero eliminati i 3 anni dalla separazione di separazione obbligatoria per poter arrivare poi al divorzio. Poi 2 quesiti sull'immigrazione: il primo punta a cancellare il reato di clandestinità e il secondo ad alleggerire le regole che vincolano il permesso di soggiorno al contratto di lavoro dello straniero. Poi c'è il quesito un po' discusso sugli stupefacenti, perché con questo quesito verrebbe eliminato il carcere per le violazioni di lieve entità legate alla droga, quindi tipo la coltivazione domestica, il possesso e il trasporto di quantità medie. Poi c'è un quesito sull'8 per mille e infine il quesito sul finanziamento pubblico ai partiti. Su Berlusconi li ha firmati tutti, appunto ha firmato perché possano arrivare, si possa arrivare poi appunto a votare al referendum. E parlando sempre appunto di questi quesiti, parlavamo, vi ho accennato al quesito sulle droghe, perché ha fatto un po' discutere, perché il Cavaliere, riporta alla Repubblica, firma il quesito droghe che sconfessa la legge voluta proprio dal PDL. Berlusconi disorienta i suoi, dice la Repubblica. Leggiamo un passo dell'Alberto dell'articolo. Silvio Berlusconi, oltre ai 6 referendum sulla giustizia promossi dai radicali, ha firmato a sorpresa anche gli altri 6 sui diritti umani. Così facendo però ha suscitato perplessità all'interno del Popolo della Libertà per aver sottoscritto anche quello intitolato Niente carcere per fatti di lieve entità della normativa sugli stupefacenti, e Gasparri e Formigoni si sono detti contrari a questo referendum, infatti, quindi c'è un po' di maretta all'interno. Sempre parlando di Berlusconi, ma diciamo e sempre parlando dei quesiti referendari, passiamo alla prima pagina del giornale. La mossa di Berlusconi, una firma salva Italia. Questo è il titolo del giornale, che spiega: il Cavaliere con Pannella rilancia i referendum per riformare la giustizia e non solo. Uno per uno i 12 quesiti e dove sottoscriverli. Quindi il giornale così spiega un pochino appunto quello che vi ho raccontato prima, quindi quali sono i temi in discussione e dove si può anche andare a firmare, a sottoscrivere la richiesta dei radicali. E però sempre, come dire, un tema interessante legato un po' alla politica, perché ieri si parlava, vi ricorderete, della decisione di Napolitano di nominare 4 nuovi senatori a vita. Ecco, il giornale si scaglia contro 2 di loro, contro Renzo Piano l'architetto e Claudio Abbado, e dice: senatori a vita ma con la vita all'estero. Leggiamo un brevissimo estratto dall'articolo di Gabriele Villa. Uno ha lo studio di architettura a Parigi e costruisce palazzi in tutto il mondo. L'altro dirige orchestre dall'America a Vienna, passando per Lucerna, e nel 2005 pagava solo 3.000 euro di tasse in Italia. Sono Renzo Piano e Claudio Abbado i nuovi senatori a vita nominati da Napolitano. 2 italiani meritevoli, senza dubbio, ma che sono ormai mentalmente espresso fisicamente ben lontani dall'Italia. Quindi questa è un po' l'accusa del giornale, ne avete sentito parlare anche ieri sulle nomine di Napolitano. C'è chi critica la scelta di appunto di fare 4 nomi avulsi dalla politica, ma legati all'arte, alla cultura e alla ricerca anche. Passiamo al titolo di Libero, che è sempre dedicato a Berlusconi, ma a un altro fronte diciamo della vita berlusconiana. Il Libero dice: ecco la domanda di grazia. Libero ha scoperto che cosa bisogna scrivere a Napolitano per ottenere la clemenza e chi deve farlo, e le ultime mosse del Colle servirebbero a preparare il terreno. All'interno, nella pagina 3 di Libero, c'è un testo della lettera da mandare a Napolitano. E si dice: per concedere la clemenza il capo dello Stato attende una domanda ufficiale. Quella per Sallusti la fece la Russa, legale del giornalista, ma non in quel procedimento. Su quel modello abbiamo scritto, Libero ha scritto, una richiesta per il Cavaliere e invitiamo qualche suo avvocato a firmarla. C'è nella pagina, in grande, molto pubblicato in un grande box, una lettera scritta appunto a Napolitano. Comincia così: egregio presidente onorevole Napolitano, e si spiega un po' la vicenda di Berlusconi e per quale motivo quindi si chiede la grazia. La grazia, ovviamente, ricordiamolo, è riferita alla condanna, alla sentenza di condanna della Cassazione di qualche settimana fa. Nell'articolo di Libero si dice: è una lettera formale di avente diritto, cioè di un legale di Berlusconi, il passaggio richiesto per dare avvio alla pratica. Ottimo, se è così riportiamo per comodo dei difensori il testo. E quindi, come dire, Libero si fa promotore della richiesta di grazia per il Cavaliere. Rimaniamo in tema politico, però passiamo a un aspetto più, come dire, più pratico, perché da oggi è in vigore il decreto sull'IMU che è stato firmato ieri da Napolitano, e il Sole 24 Ore, in edicola oggi, nell'articolo di apertura, spiega un po' che cosa cambia, come è cambiato il provvedimento rispetto alla prima versione e quali sono le problematiche di questo provvedimento. Il titolo è IMU, rischio a conti e accise, scure fiscale sulle polizze vita. Per i pagamenti della pubblica amministrazione arrivano 7 miliardi in più. In vigore lo stop all'IMU prima casa, deducibilità per le imprese rinviata invece alla legge di stabilità. Questo è un po' un tema che fa discutere, perché inizialmente nella prima versione del decreto si parlava di una deducibilità al 50% per gli immobili strumentali. Che cosa significa? Significa capannoni, significa tutto quello che è immobile delle imprese. Adesso la deducibilità al 50% viene meno, ma il governo assicura, o meglio promette, che sarà semplicemente rinviata di qualche mese, più o meno forse a ottobre, quando ci sarà la legge di stabilità. Anche all'interno del Sole 24 Ore si trova l'approfondimento su tutte le appunto tutti i provvedimenti contenuti all'interno di questo decreto: prime case, terreni, che cosa succede per gli immobili sfitti, ma per gli immobili invenduti, che sono quindi si chiamano cosiddetti beni merce, e anche che cosa sarà questa famosa service tax, chi la pagherà, quanto si pagherà, e insomma quali sono le novità appunto per le tasche dei contribuenti. Però oltre insomma al Sole 24 Ore affronta questo argomento anche il Corriere della Sera. Via al decreto sull'IMU prima casa, ma rischio rincaro per gli acconti, questo è il titolo del Corriere della Sera. E sempre in tema di decreto IMU, Libero titola: per tagliare l'IMU alzano le tasse sulla benzina. Questo è quello che Libero chiama la verità sull'IMU in pagina 8, e si dice: nel giro di poco più di un mese potremo ritrovarci con una ulteriore stretta per le imprese relativamente agli anticipi tributari e con l'ennesimo rincaro delle imposte su sigarette, alcol e benzina. Allora, parlando sempre di politica e parlando sempre di IMU, ma come dire, su un altro fronte, perché è stata intervistata da l'Unità Susanna Camusso, che è il segretario generale della CGIL. Ha detto la sua appunto su questo decreto, ma ha anche detto che le priorità chiare sono gli investimenti sull'occupazione, sulle tasse, sugli stipendi e sulle pensioni. Leggiamo subito un articolo del Giorno: contro esodo da bollino rosso, 4 milioni partono a settembre. Allora, che cosa succede? Succede che oggi sulle strade, come avete sentito, insomma c'è un po' il rischio di trovare del traffico, degli ingorghi, ma c'è anche perché ci sono questi ingorghi, non solo perché c'è chi torna dalle vacanze, perché c'è anche chi parte. Infatti Coldiretti dice che con l'arrivo della bassa stagione si verifica una riduzione dei prezzi che può superare il 30%, che risulta quindi molto appetibile in un momento di difficoltà economiche. In questo articolo del Giorno si dice che tra le mete più gettonate per chi sta partendo adesso, quindi a inizio settembre, ci sono le località di montagna, i parchi e le campagne, rispetto invece al mare, che è un po' meno preferito, anche perché forse c'è un po' di rischio pioggia o comunque le temperature si abbassano leggermente. Ma cambiamo argomento, passiamo alla cronaca e passiamo a un articolo molto interessante che si trova sul Corriere della Sera nelle pagine di Cronaca di Milano. Perché l'articolo riporta la classifica dei pezzi smarriti, degli oggetti smarriti dai milanesi. Nell'ultimo mese sono stati trovati in strada contanti per oltre 17.000 euro, dice il Corriere della Sera. E sono 16.000 gli oggetti smarriti nei primi sei mesi del 2013. Si perde sempre di più il portafogli, quindi documenti, anche assegni bancari addirittura, ma anche gioielli, collane, bracciali e altro. Ovviamente tra gli oggetti che si smarriscono più frequentemente ci sono le chiavi, le classiche chiavi di casa, gli occhiali, gli ombrelli che magari si lasciano da qualche parte perché ha smesso di piovere e poi non ci si ricorda più di averli. C'è cellulari, che insomma sono così, sono uno degli oggetti più smarriti, ma anche libri, targhe addirittura e borse anche. Il Corriere della Sera dice che appunto sono 87 pezzi smarriti ogni giorno a Milano, e c'è un deposito in via Friuli a Milano dove appunto si trova questo mega bazar delle dimenticanze urbane, e l'articolo è molto interessante. E sempre parlando di cronaca, affrontiamo un altro argomento, e lo facciamo leggendo un articolo del Messaggero, perché si parla di privacy, si parla della questione dei dati diciamo intercettati. Privacy, dice il Messaggero, Google e Microsoft fanno causa al governo USA, si ribellano al diktat di non poter chiarire i loro rapporti con l'NSA. Questo è un argomento su cui probabilmente si tornerà a parlare in autunno, perché le questioni sulla privacy sono sempre molto rilevanti. Ma passiamo ad altri articoli di cronaca, due coppie celebri, ecco, in questo caso. La prima è quella formata da Massimo Di Cataldo e la sua ex compagna Anna Laura Millacci. Avrete seguito nelle scorse settimane la vicenda. Di Cataldo è stato accusato di violenza e oggi c'è una svolta. La ex non denuncia Di Cataldo: volevo solo essere creduta. Sequestrate le foto di lei sorridente a una festa dopo le botte. Questi sono gli sviluppi del caso che ha fatto discutere molto in qualche settimana fa. Ma passiamo all'altra coppia VIP di cui vi accennavo prima. Perché oggi sulla stampa si parla delle nozze di Belen Rodriguez. Nozze VIP nel paese senza bancomat. Questo è il titolo della stampa. A Comignago, sul Lago Maggiore, il 20 settembre si sposa Belen e il sindaco è in ansia perché dice: ho un solo vigile. Allora, adesso affrontiamo un altro tema di giornata molto interessante. Ci trasferiamo in Vaticano perché, come sapete, come avrete sentito anche dalle notizie, Papa Bergoglio ha nominato un nuovo segretario di Stato. Sarà in carica dal 15 ottobre, si chiama Paolin, è un veneto, è nato a Vicenza nel 55 ed è il più giovane segretario di Stato del dopoguerra. L'articolo che insomma ne racconta la storia è del Corriere della Sera, ma ne parla ampiamente anche ovviamente l'Avvenire. Pietro Paolin, nuovo segretario di Stato, titola Avvenire, succede al cardinale Tarcisio Bertone. Sono pronto a camminare, edificare e confessare. Queste le prime parole di Paolin. E ci sono arrivati per lui, e li riporta Avvenire, gli auguri di Napolitano, del premier Enrico Letta e del presidente del Senato Pietro Grasso. Adesso apriamo una pagina, come dire, domenicale, perché parliamo di sport. Parliamo di sport ricordando le vittorie di ieri di Juve e Napoli, e lo fa la Gazzetta Sportiva di oggi. In prima pagina il titolo è: Juve-Napoli stellari, Hamsik immenso e super Higuain, 4-2 al Chievo, Vidal un gigante e ancora Tevez, 4-1 alla Lazio. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, che al suo interno dedica anche una pagina al motomondiale che ci sarà oggi, al via alle 14, e il titolo è: su un altro pianeta, Lorenzo Marziano, Marquez di più. E poi c'è ovviamente riportata lo schema di partenza, la griglia di partenza delle moto, dove vediamo Valentino Rossi in seconda fila, e ecco, nell'articolo si parla un po' di quali possono essere i possibili sviluppi della gara di oggi. Sempre parlando di sport, la Repubblica, passiamo alla Repubblica perché si festeggia la vittoria ai mondiali di Laura Milani ed Elisabetta Sancassani, il canottaggio e donna. Questo è il titolo della Repubblica, e il primo oro femminile nella storia di questo sport. E l'articolo di Repubblica appunto racconta anche chi sono queste due giovani atlete. Oggi è domenica e parliamo anche di cultura e spettacoli, perché comunque è in corso, vi ricorderete, il Festival di Venezia. E allora, sul Corriere della Sera oggi si parla di un candidato al Leone d'Oro, che è il film Filomena, il film di Frears, Emozioni, il titolo del Corriere, Emozioni per Judi Dench in cerca del figlio perduto, Filomena contro il fanatismo cattolico irlandese. E questo è un po' l'annuncio della storia raccontata in questo film. La protagonista, Judi Dench, dice: ho incontrato la vera Filomena 4-5 volte, è una donna che ha 80 anni e una grande vivacità. Sempre affrontiamo un argomento culturale, perché oggi ci sono gli inserti culturali nei principali quotidiani, e così voglio leggervi qualcosa di un articolo pubblicato sulla lettura, l'inserto culturale del Corriere della Sera in edicola oggi con il Corriere, perché c'è l'ultima puntata della controcopertina Telenovelle di Aldo Grasso, l'ultima puntata della controcopertina di Grasso, che come sapete è una rubrica che è stata dedicata durante quest'estate alle serie TV, oggi è dedicata a Girls. Girls è una serie TV americana che è arrivata anche in Italia, che ha avuto un gran successo, e la protagonista si chiama Anna Horvath, è un'eroina precaria, così la definisce la lettura del Corriere della Sera, che spiega un po' qual è la storia che sta dietro al successo di questa serie TV. Anche il domenicale del Sole 24 Ore affronta un tema molto interessante legato alla cultura: non credete a ciò che state leggendo. Spesso le prefazioni mettono in guardia dai contenuti del libro. In Italia si amano le introduzioni e le contestualizzazioni storiche più delle opere stesse. Questa è la copertina della domenicale, che trovate oggi, con moltissimi articoli interessanti di approfondimento su cultura, libri e spettacoli. E noi ci salutiamo e buona giornata a tutti. We'll be right back.